attenzione Claudio, Claudio ci sei. Natalinux, Natalinux ci sei. pronti? Sì, ciao Robè. Dammi un conto di segnale, sta provando la radio. No, mi sembra un po' fuori frequenza, aspetta che... Prova. Uno, due, tre, prova la radio, ma sono troppo strana questa radio oggi, boh. No, non mi piace la radio, boh. È un po' troppo, tipo, troppo amplificata. Guarda adesso, uno, due, tre, prova la radio. No, ancora, abbassa ancora. No, ma adesso stai abbassando anche il segnale, però, aspetta, cosa hai fatto? Sì, ho abbassato il segnale pure. Fai un passaggio lungo e prova a centrarti. Non capisco cosa sta succedendo. 1, 2, 3, prova radio, attenzione, canale 10. No, non sei centrato, però è strano il segnale, boh. La radio è anche strana. No, ma stai usando un'altra radio, così non è il K. È un'altra radio questa, però ho notato che c'è qualcosa che non quadra. Guarda, adesso il livello di segnale se sale 1, 2, 3, prova radio. No, se senti a 9. Qualche cosa, c'è qualcosa che non quadra. Il microfono com'è il livello microfono? No, no, no, sta andando bene. Se senti a 9, la radio è brutta, ciao fra. Sì. Sì, confermo anch'io, il segnale è basso qua, da 5-6 vai fino a 7-8 di modulazione, però è, no, non è chiara, è troppo rimbombante, amplificata, boh, strana. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova radio. Adesso la radio è più bassa ed è chiara, potresti anche aumentare un po'. No, ma il segnale non è il tuo, Robè, c'è qualcosa che non va, controlla il commutatore. Vabbè dai, cacca, aspetta un attimo. Adesso sei sceso a 3 di segnale. Guarda un po' adesso, niente. Segnale 3. Vabbè, questa la stacco, dai, me la guardo con comodo, dai. Allora, vabbè, Claudio. Ehi, come sto andando io? Bene, subito, trant'anni, bella modulazione. Bene, bene, bene. Vai bene, Cla. Teniamo conto sempre dove siamo, quindi. Dunque, ti ascoltavo dappertutto, anche Alghero. Ehi, ehi, vabbè, adesso sto usando la solita radio, capito, con MC60, come va? Sempre solita? Sì, sì, ma questa è la grande, l'hai ritirata? Ehi, ma no, va bene, va bene, va benissimo, radio Super 5, voglio dire, sta rinfrescando meno male, no? Sì, sta rinfrescando, la radio è buona, la solita mia? Sì, sì, la radio è buona, Cla. Vabbè, ma dico la solita, quella che usavo sempre, dai. Sì, beh, bella corposa, sì, no, va bene, Cla, no, stai tranquillo. Sono rientrato io. Tuccio, sei di bella. Caserella, prova, Robè. Vabbè, questa è la solita, con questo già sto uscendo. C'è qualche problemino sull'altra? No, va bene, va bene. 9.30 qua, sei ritornato come prima. Non capisco cosa sta succedendo, domani con calma la guardo e vediamo un pochettino. Beh, sicuramente non ti stava andando il watt, che lo vedevi sullo strumento. Sì, sì, ma a parte quello, lo sento anche in ricezione, si è abbassato il segnale, buh, che strano. Non trovi qualche connessione, qualche saldatura, o dentro l'apparecchio, o qualche spezzone. Vabbè, lo guardo con calma adesso. Questa comunque sta andando bene, dai. Questa è la solita. Ma ti è arrivata la radio? Ehi, cazzo, forte anche questa, prova a parlare. Però va bene, questa è il 430 con l'MC60. Questa è la solita tua, il segnale è come l'altra, è quella di ieri. È bella, questa è bella corposa, 60 è una bomba. Cappa del voglio, continuate, dai. Franco, ma dove eri tu quando ti sentivo lontanissimo? Dove eri? In che zona di Alghero eri tu? Praticamente rispetto a Sassi, sono dietro Montagnese. È presente Montagnese, diciamo, quella montagna che c'è di fronte al ruscello, alla discoteca, dai, al lato opposto. Quella si chiama Montagnese e dietro c'è diciamo, la parte della stazione ferroviaria di Alghero. Quindi rimango proprio coperto da tutto il monte lì. E quindi io vi sentivo, segnali bassi, segnali di 1, 2, però la radio era buona, io non avevo neanche QRM. Perché io il segnale a te riuscivo a sentirti intorno a 6-7, però c'era molto QRM, e molti passaggi non riuscivo a capire quello che dicevi, comunque mi riuscivi a tirare fuori tu. Sì, sì, no, io sentivo tutti, sento quasi tutti, sentivo appena appena anche Natalino, sentivo Doppio Room, Luca, sentivo anche Giulio, invece Giulio a me proprio nulla, zero, non riusciva a tirarmi fuori, ma ripeto, ho un antenino attaccato nella rotta di scorta, quindi neanche un buon piano di massa, fosse stata sul tetto magari, qualcosina in più l'avrei guadagnata. Oh fra, a me mi sentivi bene? Sì, sì, no, io mi sentivo bene tutti, la verità, ripeto, non con segnali buoni, però la radio è buona, ma tieni conto anche che questi smitter sono molto avari, quindi sicuramente uno smitter normale, anche voi sareste stati sul 6-7 anche voi. Ho capito, ascolta, adesso tu sei attaccato o staccato? No, no, agganciato, agganciato. Bene, bene, ok, sentiamo come stai arrivando, va bene. Prova tu, Robert. Prova, fra. Metti la portante, vedo il segnale, ci vuole l'altra. Ma io ero Franco. No, Franco, vabbè, sentiamo Roma, arriva anche all'altra. Prova tu. Ora. E di 9.30, sì, uguale all'altra. Va bene, allora. Perfetta anche questa. Quindi ti piace la modulazione, MC60? Questa è una bomba, questa è proprio un combattimento bella potente, chiara, niente da dire. Bene, bene, bene. Tutti, dai, continuate che sono qua. Segnale roba è 30, 35, quant'è? Lo superi di un peluzzino il 30. Con l'altra, quando era piena potenza, forse un peluzzino di più, ma siamo quasi uguali. Va bene, dai, ottimo per la truppa. Riprendi fra. Cicla, com'è? Crollato? Da 7 a 9 passi. Due, no, no, pensavo di scendere un po' di più, invece già mantiene, dai. Mi si è spezzata l'altro giorno, diciamo la parte bassa, quindi era coricata su un fianco, io non c'ero, ero ad Anghero tutta la settimana. E quindi adesso lo rimette in piedi, dai. Meno male non è caduta giù, si è appoggiata a un fianco. Attenzione Claudio. Ehi Gianfra, ma tu sei venuto qua e quindi sai dove sono. Secondo te, come mi hai detto, secondo me, secondo tanti altri che sanno dove sono, i segnali sono molto forti. Avanti Gianfra. Sì, buonasera a tutti. Claudio, ti volevo chiedere, ma questa è quella di stamane? Sì, questa è quella di stamattina. Visto, c'ho ragione. Tutta un'altra cosa. Ora sei tu, adesso va bene. Stamane proprio non eri tu, quindi lavoro perfetto, dai. Ciao Nellesco, Gianfra. Sì, c'è Nellesco, Gianfra. Sì, ma cioè io non perché pecco di presunzione o perché sono un tecnico, però quando io sento la mia radio so che dà un certo livello, poi la risento, il livello non è quello, non è che sta rubando la colpa a te, è perché il tecnico, il laboratorio ha fatto delle centrature che non doveva toccarmi, quindi io me le ho rimesse come erano, tutto qua. Va bene, dai, vi saluto momentaneamente che ho due cosette da fare, ci sentiamo dopo, ciao! Cappa, siamo qua. Avanti, Robè, finito di lavorare? Già da un po', alle 6:15 finisco, dai. Io comunque ti ascolto più alto di Claudio, con tutta questa differenza mi sembra strano tra me e lui. Adesso questo passaggio è di 9:15, 9:25, poco fa di 9:15. Sì, ho fatto due passaggi, dai, uno con e senza la marmotta, diciamo. Perché più o meno abbiamo gli stessi segnali. Adesso si è attaccato comunque. Sì, sì, adesso sì. Sei 9:25, mentre attaccato di 9:15. Gianfra, prova a parlare di nuovo, tu che avevi dei problemi, non so se avevi qualche radio attaccata vicino. No, scusate, che c'è qualche problema, siccome l'ho attaccata adesso, forse ho sbagliato qualcosa nel collegamento. Ecco, vediamo un po'. Sì, forse adesso ho smesso. Sono dimenticato di darle la corrente, niente di grave. Ecco, sembra un organo, suona. Sì, quando lascia la portante bianca innesca, parlando poi diminuisce l'innesco. Ah no, ma proprio qua forte, copre, sembrava una tromba di nave, proprio No, era forte anche qua, vabbè, qui non arriva forte di segnale, sicuramente sta usando anche lui bassa potenza. No, qua già arriva forte, già fra 9:25. Dimmi un po' quanto ti arrivo io a te, già fra. Anche, sta continuando nelle scale. Mi sa che ho toccato qualcosa. Che strano. Sì, sta mascando. Lo vedo. Tu sei, dovrebbe essere 9:30, però stai mascando troppo. Ah, guarda, ci deve avere qualche problema, perché è un innesco strano, fa tipo un suono di una nave, una cosa del genere. Volevo dire, scusa, è Franco, non Gianfranco, come ti arrivo io dalle tue parti, Franco? Ah, tu sei sul 3 del 30, sei quasi 9:30, 9:27, dai. Sì, dai, questo già sta andando bene. No, va benissimo. Tieni sempre conto che la mia antenna non è sul tetto, quindi sicuramente perdo. Ah, non sei sul tetto? No, no, la mia antenna è sulla, diciamo, sulla mia, sulla facciata, scorre. Diciamo dal mio appartamento, dalla finestra, parte l'antenna e va a finire, diciamo, sotto la grondaia, sotto il tetto. Dai. Ecco, però c'è un segnalone, tu, considerando che la macchina non si è molto orientato verso di me, sei 9.25, guarda, non è poco arrivare da dove sei tu. Io di fronte a un palazzo, diciamo, sono circondato, c'è l'antenna circondata dai palazzi, in mezzo ci sono i giardini, cioè gli alberi, dai, alberi da frutto, da limone, cose varie. Quindi non vedo niente, l'antenna è cieca, però qualche parte arriverà, sparerà. Sto usando sempre la canna da pesca, quella che è autocostruita. No, probabilmente c'è una resa verso di me, perché ci sono 20 dB tra me e Claudio e sono tanti di differenza. E dimmi una cosa, se vuoi dirlo, quanto ne sta uscendo adesso? Quanti ne stai dando? No, scusami, frate, c'è per fare un attimo il sito, sei 9 più 10. Capa, buono. Ma tra me e Claudio c'è tutta una montagna, diciamo. Ma che con te sicuramente non c'è. Perché lui è molto in alto. No, abbiamo più o meno gli stessi segnali, almeno quelli di città. Però qua ci sono, io ce ne ho, tu sei 9.25, lui adesso è 9. Quanto hai detto qua? 9.10? Sì, 9.10, Franco, 9.10, ma è normale. Perché dove sono io, dove sei tu, lui, tu a lui lo vedi, io a lui no. Infatti è rimasto, non è venuto qua. Franco, perché siamo molto amici, la moglie è un ex collega di mia moglie, quindi siamo visti, è rimasto un po' così, ma ha detto minchia, per dove sei stai uscendo perfettamente. E a voi c'è un'ottima posizione, anzi, avrebbe voluto un bel genere. No, sto facendo, Frazzo, lo vuol dire, con quanto, che salto hai fatto, da normale a adesso? Ma no, di preciso no, ti posso dire cosa segna lo strumento, ma sicuramente segna di più. Qua altro ne segna 250, ma non ci sono, perché mi ricordo che sono molto meno. È normale di normali, quelli di normali, diciamo. Normale l'ho abbassato a 5 watt di portante, poi sale un po' di più modulando, dai. No, ce l'hai la spinta, no, cavolo, quasi molto molto forte. L'ho abbassato questo proprio per pilotare affinché uscisse bene di radio, non mi interessa perdere 100 watt, 50 watt, l'importante è che non saturi la radio, capito? Sì, sì, è importantissimo. Vediamo Gianfranco se ha sistemato. Attenzione, Gianfranco, avanti. Oh, io vi lascio, dai, ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Ciao Franco, Gianfranco e Robby. E io, ciao ciao. Ciao Gra, un abbraccio a tutti, ciao. Ciao, grazie anche da me dell'aria, ti hanno sentito, ciao ciao. Dai, che è Filippo, E pure, dice Gangone, porca miseria, è sempre buttato nell'erba, E tu carino, Hai visto la tettoga? È un cane da lecca, Per carità, Fa solo ridere e basta, per quanto è buffo. Dai, ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Confermatemi se devo lasciare tutto così io. Ecco dove vedo qua, sei perfetto. Non toccare niente. Bravissimi, non vi voglio sentire, perché io controlli non ne chiedo più, L'ho chiesto giusto per fare queste terature, quindi. Puntello, già la radio è chiusa, tutto a posto, tutto ok. Dai, ci sentiamo dopo ragazzi, ciao. Ehi, ciao, vai già a fare, adesso sembra che stia andando bene. Sì, siccome ero con Claudio, che stavo facendo le prove, parlarsi che ne ha fortitamente, siccome eravamo a Cabassoli, ho toccato qualche cosa e quindi è cambiato. Vediamo se, non so se la radio sia troppo forte o troppo debole, perché mi sa che sto proprio sperando da toccare. Comunque, vabbè, ciao Claudio, buona serata, buona cena, anche io tra poco vado. Quindi la lascio così? Ti ascolto perfettamente, niente da eccepire. Ok, perfetto, quindi va bene così, la lasciamo così. Siccome l'ho attaccato, perché questo si stacca, no? E si mette sul contenitore, e poi l'ho riattaccato per la fretta, come l'ho attaccato, mi sono dimenticato l'alimentazione, poi mi sono dimenticato qualche massa, e quindi è chiaro che ha fatto un po' di macello, tutto lì, niente di grave comunque. No, qua hai migliorato un sacco, sia di segnale e di conseguenza anche la radio, e poi non c'è più quell'innesco di prima, dai. Sei ritornato tu, Gianfranco. Ok, meglio così. Così, facciamo le prove, sono andata anche in alto, insomma, c'era un po' di freddo, e qua siamo da caldo. Ma in alto sul tetto o in alto di frequenze? No, in alto nella montagnola di Sassari, no, la più alta c'è a Sassari, però non si vedeva una mazza, non c'era panorama, c'era un vento un po' freddino, sembrava che da un momento all'altro scattasse anche un temporale, nuvole, e poi non si vedevano neanche i ripetitori, quindi figurati, quando sono sceso non si vedeva un tubo. Però c'è un'umidità pazzesca, fuori mi sta segnando l'igrometro, 72 già di umidità. Avanti Antu. Antu, tu sei? Sta girando il culo, non te lo voglio dire. Cosa c'è? Ma sei ben incazzato, sì. Boh. Ma sto uscendo o non sto uscendo? Non so, se vuoi uscire esci, io sono a casa. No, sto vedendo che non stanno salendo i watt. No, sto scherzando, sì che stai uscendo. Sei più basso Antu. Ma cosa ne gioco io? Cosa ciao ne ha tanto, ti ne pare la mazza? Povera radio, io vi saluto, ciao Antonio, ciao a tutti e siamo da cena, ciao. E anche io dopo poco da cena. Franco, quanto ti arriva Gianfranco a te? Gianfranco, prova. 5, 4, 3, 2, 1, prova. Adesso è 7 con picchi a 9 di modulazione, però ripeto, un po' avaro, Ma io non riesco a capire una lucida, cacchio. Tu ce l'hai, teoricamente più vicino di me. Cioè, a me mi è arrivato, tu due con lo stesso segnale, 9 più 25, e lui ti arriva a 7, io a te ti arrivo 9 più 30. Ma lui praticamente rimane dietro il mio palazzo, rimane, verso Monte Oro, credo. Quindi io a lui proprio neanche lo vedo, la mia antenna a quella parte rimane proprio coperta. Perché la mia è proprio spalmata sul muro. Verso di te sono leggermente più aperto perché l'altro palazzo ce l'ho a 20 metri, diciamo, là, ci sono i giardini in mezzo, quindi sicuramente quella parte. Ah, così, quindi c'è la parte opposta alle radiazioni dell'antenna. Anto, vai! Dai, vado a mangiare, ci sentiamo dopo, mi sta rompendo le balle sto coso. Ok, dai, vai, non so se ci sono dopo, se no vediamo un pochettino. Vai Gianfra. Sì, ciao Antonio, buona cena, anch'io, come detto, vado a cenare. Comunque, che io non raggiungo i 2 watt. Li supero un pochino, forse fischiando, ma così normalmente sono 2 watt. Se vuoi attacco la potenza normale. Sì, infatti mi ricordo, mi ha anticipato, infatti ho detto, ricordiamoci che Gianfranco esce con pochissimi watt, sennò i 9 li passa, credo, Non so, ci provo, vediamo un po', aspetta, se me ne ammento come si usa questo nome. Ecco, adesso dovrebbe essere salita la potenza. 1, 2, 3, 4, speriamo che non inneschi, ma non credo. Prova, dovrebbe essere aumentato un pochino, ma non ci dovrebbe essere grossa differenza, sono pochi watt. Adesso hai quasi lo stesso segnale di Roberto, hai fatto un salto enorme, hai sul salto, come si dice. Sì, perché quella di classica è bassissima la potenza, ti ho detto che a volte neanche un watt c'è, cioè, sullo strumento serio, qua usano 5-6 watt al massimo. Caspita quando cambia, adesso ti ho portato a 9, parla tu Robè. Allora lui qua arriva a 9 più 35 con la potenza un po' più alta e 9,25, 10 punti guadagna di coso, di segnale. No, tu sei leggermente più forte, attenuato, lui l'ho portato a 9, tu sei su 9,10, attenuato. Probabilmente siamo favorevoli come coso, come disposizione di antenne. Può darsi, la mia è una Green Master, anche se c'è mezzo quintale di cavo e io sono esattamente a 40 metri di cavo. L'antenna non è altissima, anche perché tu alta non ce la vedo, cioè non ne vale la pena, perché va bene così. La mia, come si dice in gergo, come si dice di condizionatori, la mia antenna è muro, tra l'apparato e l'antenna ci sono un paio di metri di cavo, di RG vecchio, RG8, dai. No, se metto l'RG8 io non esco proprio, se vado il metodo scendere a zero, perché no, non ci arriva in tanti metri, sono quasi 45 metri di cavo, come fa ad arrivare all'antenna? Se ne mangia la metà l'RG58. RG8 che siamo. No, questo è tutto quello messi palloni, messi palloni, quello che si interra sotto la terra direttamente senza canale. No, no, non 58, il mio RG, il vecchio RG8, quindi è un capo grosso che sicuramente ha i suoi anni, quindi avrà la sua perdita. Comunque sono pochi metri, quindi va bene così, dai. Ho preso l'H155 in previsione di metterla sul tetto, l'antenna, ma ancora per adesso non ne ho intenzione, dai. Sì, non ce n'è tanta voglia per dirla tutta. Io sono andato su anche a fare prove di qua, ho fatto tante chiamate, ma sentivo i greci, sentivo i francesi, eccetera, ma da Sassari, Nisba, niente. Anch'io mi accorgo quando gli altri parlano, fanno di ex, io li sento a malapena. Però nulla toglie che qualche di ex l'ho fatto, ho parlato con la Polonia, Francia, Spagna, Portogallo, roba così, Canarie. Però qualche mosca da nato me l'ho tolta, dai, qualche piccola soddisfazione. Avanti, Robè. No, io cavo non le uso, io sono wireless, senza cavi, magari. Arriveremo anche a quello, piccolo ripetitore. No, non ha detto mica una fesseria, ci sono, tutti i sistemi di rete, wireless sono... No, credo siamo 3 o 4 qua, e si mettono proprio sotto l'antenna, o in genere sono proprio incorporati nell'antenna, e quello è il trasmettitore, tutto l'altro è solo un banale cavo di rete. E così ci sono anche i trasmettitori di altro tipo, che sono un coassiale particolare, qualche comando, e poi il grosso è un'antenna, proprio per evitare cavi costosi, coassiali, eccetera. Sì, no, vabbè. Stanno anche facendo delle prove, i vecchi sistemi di Tesla, che poi non si sa che fine abbiano fatto, trasmissione di energia elettrica senza fili, non so se l'hanno provati in Australia o in Norvegia o un paese, adesso non mi ricordo chi, c'è proprio la trasmissione degli elettrodotti senza più cavi. Eccomi qua, guardate invece se va meglio, ho scoperto che cosa era, dai. Santiago 3. Allora, 9.30, sì. Infatti lo vedo dallo strumento, lo vedo che sta uscendo. C'era tutto il coso abbassato, c'era, dalla modulazione. Mia, un amico mio, oggi. Buonasera a tutti. E oggi viene attaccato al coso, al palo della luce per la corrente, quello della strada, e poi al faro di Porto Torres per prendere l'antenna. E la massa a capocaccia. Allora, l'alimentatore è al mio vicino. L'alimentatore ce l'ha la Zinara. Oh, vi lascio, buonasera a tutti, scappa a cena. Ciao Antonio, ciao a tutti, ciao Eugenio, ciao. Ok, ciao, buon tutto, anch'io tra pochi secondi stacco, dai, saluto Eugenio, dai, di nuovo Eugenio, poi si passa per Antonio. Oh, buonasera a tutti, buonasera, di nuovo. Ci sto a lavorare finalmente, non lo faccio più. Niente, non ho capito chi era l'amico, comunque buona salute e buona cena. Dai Antonio, riprendi. Capa, buon tutto, ciao Gianfranco, buonasera. Buonasera Eugenio, buonasera. Oh, ciao Antonio, buonasera. Un attimo avete sentito ultimamente? Ieri? Appena saluto a Gianfranco, ciao Gianfranco, avanti Eugenio, buonasera. Buonasera anche a te. Buonas noches, campo. Volevo un attimo, volevo chiedere una cosa. Oh signori, interrompo io, dai, vi saluto, ma magari dopo se c'è qualcuno, ciao Franco, ciao Eugenio e ciao Antonio, dai, eventuali amici poi in ascolto. Cuore ti a parte mia. Ciao, vado a mangiare, ciao. Ciao a me. Ciao Robè, ci sentiamo. Ciao. Eugenio, come ti arriva a te, Antonio? Bene, avanti Eugenio. Eccomi qua, perché ci sono problemi. No, io ho sempre problemi per quella parte lì, Porto Torres, Alghero, sono off limit per me. Non più tanto, perché quando arrivi a Santiago Sesto, alla grande? Ma non sono liscio, capito? Ok. Però vabbè, per il momento ti ascolto più che bene. Guarda adesso, mi hai perso adesso. No, ci sei. Sì, a due, però ti ascolto. Così mi ascolto io, ma di radio, l'importante è che arriviamo di radio almeno, dai. Vabbè, sono la tua antenna. Ah, ieri, no, ieri, sabato, domenica sera quando sono rientrato l'ho trovata spezzata, c'è spezzata la base dove c'è il piantone in legno, capito, rinforzato in legno, c'è spezzata. A me Eugenio mi arriva quasi 8 oscillante, quasi appena appena 9. Mi arriva così, mi arriva. Figurati, sicuramente tu lo vedi a lui, dai, le antenne si vedono, là. Vedete, siete presente che io abito nel fosso. Capito? Ma sono nella giornata del produttore, spero a casa mia risulta in mezzo al verde, in mezzo agli ulivi, in un fosso praticamente. Vabbè, la mia è... purtroppo c'è tutto il palazzo verso di te, quindi sicuramente va da schermo. Vado meglio verso la parte, diciamo, di Sassari, là, verso la parte alta di Sassari. A chi è che mi stava cercando? Qua sopra lo duetto, avanti. Sono. Sono dalle mie parti, devo insegnare forte. Ecco, Eugenio, la voce alta. Ciao, anche il tuo paesano. Se vuoi entrare, così mi... Allora, Anto, cosa mi racconti? Capo, allora non mi trattava di portante, non mi trattava, non comprendia cosa era, non capivo cosa era. Praticamente era il coso, era, come si dice, c'era tutto il coso abbassato la modulazione, mi chiedi. Cioè qui si esempio bocca a tocca. Capa, meno male, dai, cosa? Piano piano. Beh, oggi c'è nel movimento lì, apparatore. Poi, anche troppo. Io sto saltando da una cosa all'altra, la guerra, veramente. Sono stanco, stanco, diventare stanco. Anche io non raggio più gana, come si dice, non abbiamo più voglia. A livello di turisti, dico, ne stanno sbarcando? A voglia. La gente sta arrivando stanca. Mamma mia, speriamo bene, a tu. A settembre, ottobre, noi siamo un nuovo contaccato, ragazzi. Non ci sono neanche più i controlli da un mesetto buono. Non avrei fatto le tende, nessun controllo, tutto libero. Quindi adesso ci fanno fare capo così. Secondo me se per l'ottobre c'è un nuovo punto a capo. Vedremo l'effetto del vaccino a settembre e ottobre, vedremo cosa il risultato. Se non si inventano la variante di Romacchini che portano in capo, gli ha fatto tutto bene. Soedi ha variato, insomma. Secondo me è disobbediente un po' di rina puro. Ci sono accorti che sta diventando un casino e adesso vorrebbero riaprire, vorrebbero rimettere tutto in normale. Hanno imbigliato dei nunzi che ci gassigate. Come l'anno scorso, no? È l'estate, aprono, fanno lavorare due o tre mesi e da buito alla Zarradi, tutto l'inverno a cuccia. Mamma mia. Tu l'hai fatto il vaccino, Anto? Il 21 me l'hanno fissato. Il 21 è l'altro mese. Ma il primo o il secondo? Primo. E tu, Eugenio? Io ci sono dovuto fare. L'ho fatto. Anche il secondo, lo richiamo? Fatto tutto. Io ce l'ho il 25, non è? Dopodomani, in Bari. Sì, dopodomani ce l'ho il richiamo. Con la camera? Sì, è che mi hanno messo di mattina, ma io vado di sera. Gli ho detto, guarda che io di mattina lavoro, e non c'è un problema, venga quando vuole, mi ha detto. E quindi ci vado di sera, come esco dal lavoro ci vado. È tipo vino di sorso, ma ne ho fatto il contratto. Un po' di cannonato di sorso, a 18 gradi. Oggi non è che ti do un vino di sorso, ma ne hai fatto un contratto con la cantina. Immagini. L'unico vaccino più buono da noi è l'influenza. La febbre influenza. La febbre Covid. E allora arrivi da Cagliari. È mezzo là in mezzo. Ma hai detto che bisogna sostanza in mezzo. Hai fatto un contratto con la cantina, ma quindi di più. Sostanza di vino e sorso, bisogna. Ma no, il vino a me non mi ci sceglie. conoscendo, io non sono un bevitore, ragazzi. Scherzo. Non ci scende niente di alcol. Ma io sono nella media, dai. Media inglese. Due in casa e tre o quattro fuori casa. No. Vabbè, no, non ci va a me. Non ci scende. No, scherzo, dai, comunque qualcuna me la bevo con gli amici in compagnia. Cosa volevo dire? Allora, mi sono dimenticato. Avanti, a tu. Poi non ero bingo nulla, cioè bevo poco. Sabato, oioia, navia una, tra. Ah, mi hanno detto che appena fai il vaccino, prendi le monete, quelle da un centesimo, da due centesimi, le appoggi al braccio e rimangono attaccate, dici che diventi una calamizza, non so se sia vero, ma adesso provo, se mi ricordo provo quando faccio l'altro vaccino. Là. Guarda, ma quelli sono i negazionisti che si votano su puttanate. No, dice che questo amico mio, una tipa l'ha provato, dice che rimanevano attaccati, le monetine, quelle che sembrano di rame ma sono di ferro dentro. Ok, avanti. E che mura zutti è che c'ha cosa, bra? E che senso, visto che metalli pesanti ci sono dentro, buh. Adesso, guarda. Io ho visto solo adesso, insomma, 7 persone, quando ce l'ho io. E con un ragazzino, guarda, 6 persone non una certa età, forse per il caldo, non so, boh. Può essere anche, non so, l'emozione, la paura, a volte può giocare brutti scherzi, Il caldo, magari senza bere, la tensione, e magari vai un po' in panico, in blackout. No, io primo, la verità, un qualche giorno ho indolenzito il braccio e basta, non mi ha dato febbre, niente. Invece mia moglie ha un po' di mal di testa per qualche settimana. Allora, a me solo intorpidito il braccio, si è intorpidito il braccio, ma niente di più. Invece mia moglie adesso ha fatto ieri ed è coricata. Coricata di stesa, male tutte le ossa, febbre. Anzi, forse adesso si sta riprendendo. Però comunque è fatta male. Con richiamo. Oggi, no, ieri ha fatto richiamo. Beh, dice che è più tosse, il richiamo dice che è più... da più problemi, boh, adesso vediamo, speriamo di no, boh, è sempre comunque soggettivo, cambia da uno all'altro, cambia. Cosa avete fatto voi, Pfizer? Lui ha fatto AstraZeneca primo e Pfizer secondo. No, io ho fatto il primo Pfizer, quindi mi faranno Pfizer anche il secondo adesso, boh. Sì, vabbè, l'AstraZeneca non l'ho fatto. Adesso c'è Johnson & Johnson, Moderna e Pfizer. Le monodose, ne fai uno e boh. Sì, ma chi lo fanno? Io l'ho richiesto, non l'ho richiesto, non l'hanno fatto il Pfizer, basta. Non me l'hanno fatto sul San Johnson. Ma chi lo fanno sul San Johnson, boh? No, non lo so. Io, quando c'ero io, hanno fatto la maggior parte, tutti Pfizer, e quelli con qualche problema facevano il Moderna. E qualcuno AstraZeneca, ma qualcuno di quelli vecchi, qui bari anziani. Io faccio una paura, io. Se mi secca il braccio, mi fa dire che cosa mi crea problemi. No, si secca il braccio, quando mai? Ti dà... un po' nel punto dove ti fa la puntura che non senti neanche, ma niente di... già vuoi andare, va già, non ti preoccupare, un braccio. Tu fallo nel braccio che usi di meno, se sei destro, fallo a sinistra. Cavolo, qualcosa bisogna fare. Mamma mia, ma oggi mi c'è bideggia che ti aggozzano. Non ci sentiamo più poi. Però ti accontami, tu. Infatti non è detto. Capa, allora che mi fa effetto che non mi fai a te. Se no è un casino da voi. Vai tranquillo, Antu. Capa, però che bisogna tenere la barca a me. Qui bisogna schirriare di antenna a me. Capa. Sì, e poi cavolo. Ma non mi può chiamare, c'è un dimendio io. Ah, vai, va male, vai. La puntura non la sentire bene. No. L'ago è una punta da 6 mm, mi. E vediamo che non sia anche corrodone che mi c'hai vedo già lo braccio. Una puttana se i vidi, amico, quelli per trappano. E non se la botta a canti di cui io. No, sto scherzando. Un ago normale, dai, no. Sono siringhe piccoline poi. Quello che usano per anestetizzare i cavalli. Quello. E per trafasare, per fare trasfusione di sangue da un cavallo all'altro. Tocca a farla in sabucaria. Però io faccio un sacrificio, però non voglio una bigliata a Maruguro però, Perché se tu poi arriva l'inverno e mi chiudi in casa, non andiamo d'accordo. Ma io però fanno vaccino, non tu. Non ho capito. Arrasarti bene la nasica, però fanno la dieta vaccino. Ma non lo curo me lo fatene. Allora? Ma in camera è con ingresso da dietro. Ah, ricordo nei capiotolo a volte quando io faccio un giro. Me lo fa dentro di me lo deve fare, noi chiave. Aspetti, preso un bello seccio. Tanto c'è una nascita, no? Il vaccino non è uno, la prima cosa, sono due, uno da dietro e uno sul braccio. E poi ci richiamo. Lo vedo un bello seccio, Antonio, giustamente. Beh, Natalia. Ok. Vai, rimango in ascolto io. Già ne agguanta Antonio, dai. Ah, ma sono un cazzo mai bigliato. Oh, yeah. Allora, guarda tu, mi sono con ragno. Non è che ti voglio fare un bel negroni, di quelli belli mattutici. Ehi, e ti canta a te uno di chi c'è? Stiamo scherzando, Antonio, fai tranquillo, non ti va tenuta. Io li ho fatti tutti e due, non mi ha fatto un tubo. Nel primo e nel secondo, Pfizer. E speriamo che sia così anche per me, dai. Tra un paio di giorni te lo dico. Signori, ciao Natali, buonasera, mi sentito, anche se basso. Io vi lascio vedere la masticare. Ciao, ci sentiamo se coincide. Se non ci sentiamo spero che sia per colpa vostra e non per colpa mia. Ciao a tutti e buon vaccino a tutti, ciao. Ciao Luigi, un abbraccio anche a te, anch'io mi sento odore di roba da mangiare. Saluto Natalino e saluto anche Antonio, avanti Natalino. E ciao a tutti, là, rimango in ascolto io, ciao Antonio, Franco e Eugenio. Ciao, ci sentiamo. Ciao, buona cena a tutti, ciao. Ciao, buona cena, ciao. Attenzione, binario 10, copiate Antonio K,